puntata. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, che dal punto di vista finanziario è abbastanza tranquilla sulle borse, più 0,20 Milano, più 0,20 anche Parigi, Francoforte più 0,15, Londra invariata, Dow Jones più 0,17, euro su dollaro a 1,18. Oggi c'è qualche recupero sulle banche, che molto erano calate in queste settimane dopo l'annuncio, l'anticipazione di quelle che sono le intenzioni della Banca Centrale Europea per quello che riguarda il nuovo modo di considerare i non performing loans, le sofferenze bancarie, i crediti che non sono più esigibili dal 1 gennaio. Ma dicevo, recupero oggi Banco BPM più 3,50, Banca Generali più 1,20, B per recupero parziale, B per più 1,20, UbiBanca più 1%, UniCredit più 0,70%, bene fuori dal settore bancario Campari più 2, Case New Holland più 1,1. Fronte opposto, Azimut meno 1,30, Telecom meno 1,20, Italgas meno 1, A2A meno 0,60%. Visto che citavo Telecom, oggi il governo, attraverso il Consiglio dei Ministri, ha autorizzato l'esercizio della del Golden Power su TIM. È un potere speciale, lo ricordo, di cui dispone il governo su società che operano in settori considerati strategici per la difesa, la sicurezza, l'energia, i trasporti e le comunicazioni. Sostanzialmente la legge prescrive che i cambi di controllo in società che operano in questi ambiti debbano essere notificati alla Presidenza del Consiglio entro 10 giorni. Siccome la i francesi Vivendi hanno il 23,9% di TIM, ma hanno notificato al governo questa situazione solo dopo lo scorso 15 settembre, cioè solo dopo che la Consob ha stabilito che quella quota lì di Vivendi è una partecipazione di controllo di fatto, a questo punto il governo può imporre paletti nella gestione degli asset strategici o multare TIM fino all'1% del suo fatturato per una comunicazione che è arrivata tardi. Tra l'altro c'è sempre sulla vicenda anche la spada di Damocle, mettiamola così, della Consob francese MF, vedremo se confermerà o meno la decisione presa dalla Consob italiana. Nel qual caso il gruppo francese dovrà anche consolidare in bilancio il debito della società italiana. Cosa vuol dire? Vuol dire che se anche la Consob francese ritiene che Vivendi abbia il controllo di fatto di TIM, devi mettere in bilancio anche TIM. Piccolo problema, TIM ha un debito di circa 25 miliardi di euro e quindi da questo punto di vista vorrebbe dire un bel salasso per il bilancio poi di Vivendi, se devi consolidarlo, se devi metterlo nel tuo bilancio. Allora, di questo parleremo, perché parleremo subito in apertura del Consiglio dei Ministri che ha varato alla legge, ha dato via libera alla legge di bilancio. Molte novità le avevamo già anticipate anche noi, ma insomma ci sarà un bonus anche in agricoltura, ma soprattutto sgravi per assunzioni under 35. Questa forse è la novità più rilevante, cioè si diceva fino a che età uno sarà considerato un giovane neoassunto, 29 o 35, l'asticella viene portata a 35. Lo sgravio è del 50% per 3 anni, ma al sud, per i giovani assunti al sud, lo sgravio è del 100%, mi riferisco alla decontribuzione, ai minori contributi da pagare. E poi altri elementi già toccati: l'aumento per gli statali, contratto della pubblica amministrazione che vale 1,6 miliardi, e poi anche il rifinanziamento di Industria 4.0, quindi le agevolazioni, i preammortamenti, i superammortamenti per quello che riguardano l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle imprese, poi la dotazione per il reddito di inclusione. Oltre che della manovra di oggi licenziata, come si dice in gergo, dal Consiglio dei Ministri e della vicenda TIM, ci occuperemo anche della vicenda Alitalia, perché come in parte anticipato, oggi è arrivata una nuova offerta per l'Italia, quella di Lufthansa, che perché alle 18, quindi fra tre quarti d'ora, scadono i termini per la presentazione delle proposte di acquisto di tutta o di parte della compagnia. Dicevo, il gruppo tedesco non ha fatto proposte per l'intera compagnia, è stata fatta una proposta per una nuova compagnia. E come promesso parleremo anche dell'alternanza scuola-lavoro, un tema che non siamo riusciti a approfondire venerdì dopo le manifestazioni degli studenti. Ripeto, da quel punto di vista il mio dubbio, pur ricordando e avendo visto anche dai vostri messaggi molti casi, letto di molti casi in cui l'alternanza scuola-lavoro non era cosa buona e giusta, nel senso che tu non metti a fare il volantinaggio piuttosto che a preparare solo i caffè lo studente. Altra cosa è dire che quando tu fai un'alternanza scuola-lavoro lo studente non debba fare mansioni anche abbastanza basse all'inizio. A mio avviso sì, capita a tutti gli stagisti, capita anche allo studente. Quindi, e a me aveva dato particolarmente fastidio la frase degli slogan "siamo studenti, non siamo operai". Sembra che la frase completa fosse "siamo studenti, non operai, non pagati", ma insomma arriveremo anche a questo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta di Focus Economia da Facebook. Le altre notizie in breve: oggi non c'è moltissimo al di là dei temi che abbiamo già annunciato come elemento di approfondimento. Per quello che riguarda la Cina, la banca centrale stima adesso un PIL al 7% nella seconda metà del 2017, sarebbe un piccolo rimbalzo dopo alcuni anni di rallentamento. Questo lo dico al di là poi delle parole che avete visto di Draghi, che ha detto da Washington, i mercati non sono in una situazione di bolla. La ripresa nell'area euro continua con 17 trimestri consecutivi di crescita, in 4 anni sono stati creati 7 milioni di posti di lavoro, e poi non vedo un aumento drammatico del debito nell'area euro. Sugli NPL purtroppo, dico purtroppo perché sono spesso d'accordo con Mario Draghi, ha dato ragione a noi e ha detto no, il documento è per una consultazione. La BCE ha pubblicato un documento e chiesto commenti, ecco il motivo per cui è uscito questo documento, e quindi vogliamo che il mondo dell'industria e gli altri attori diano il loro parere. Poi segnalo una cosa interessante: che venerdì scorso Bridgewater Associates, che è il più grande hedge fund al mondo, ha scommesso 713 milioni di dollari sul ribasso delle azioni di 5 banche e una compagnia assicurativa italiana. L'ho scritto l'agenzia Bloomberg, che sottolinea che sia stata la scommessa della sua scommessa di Bridgewater più ampia in Europa. Scommette che l'inasprimento delle regole della Banca Centrale Europea sui crediti inesigibili deteriorati portino a un ribasso dei titoli delle banche italiane. Il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha detto Bridgewater perderà la sua scommessa. Allora, vedo molte domande sull'Alitalia, adesso arriveremo anche all'Italia. Volevo leggere solo un'ultima notizia prima di arrivare al primo tema di approfondimento sulla legge finanziaria come uscita dal Consiglio dei Ministri. La Gran Bretagna si è trovata, secondo quanto scrive oggi il Daily Telegraph, che è un quotidiano molto vicino al governo conservatore di Theresa May, si è ritrovata da un giorno all'altro più povera per circa 550 miliardi di euro, 490 miliardi di sterline. È una cifra spaventosa, è emersa dopo che l'Ufficio Nazionale di Statistica ha ricalcolato la ricchezza del paese e ha scoperto che erano stati sovrastimati gli asset internazionali. E quindi dice il Daily Telegraph: non c'è una riserva di asset straniere da utilizzare per proteggere l'economia nazionale contro i rischi della Brexit. E quindi la posizione patrimoniale netta sull'estero del Regno Unito è passata da un surplus precedentemente calcolato di 496 miliardi a un deficit di 22 miliardi, una cifra che vuol dire un quarto, che corrisponde circa a un quarto, non del PIL britannico chiaramente, ma di quanto si presumeva inizialmente. (349) 238 6666 per sms e whatsapp. Primo tema, la nostra legge di bilancio. Una volta si chiamava finanziaria, poi si è chiamata legge di stabilità, adesso si chiama legge di bilancio, ma sempre quella è la finanziaria. Mesi fa si parlava, in rapporto a questa sessione di bilancio, di lacrime e sangue, di una situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare. Abbiamo, io credo, invece una manovra snella che sarà utile per la nostra economia. Ne voglio sottolineare alcuni punti. Primo, il nostro primo obiettivo era quello di evitare gli aumenti dell'IVA e l'introduzione di nuove tasse, gabelle, accise. Obiettivo che abbiamo raggiunto, impegno che è stato mantenuto. Secondo obiettivo resta quello, naturalmente, di promuovere il lavoro. Questa legge di bilancio vi contribuisce in modo significativo, in particolare verso i giovani, e sappiamo che tra le tante difficoltà che abbiamo sul tema del lavoro, quella relativa ai giovani e al mezzogiorno è la più evidente. Terzo obiettivo è quello di incoraggiare il nostro mondo delle imprese, la loro capacità competitiva, l'innovazione tecnologica. C'è un pacchetto di misure rilevanti in questo senso che si associano a misure prese anche in altri settori. Cito per tutti l'inserimento di nuovi 1.500 ricercatori. Abbiamo bisogno di aumentare il tasso di capacità del nostro sistema in generale. Così appunto il premier Gentiloni, nell'illustrare la manovra finanziaria, ha parlato anche del quinto obiettivo della manovra, cioè quello di affrontare alcuni aspetti più critici sul piano sociale, le misure sulla povertà e nuove possibilità di anticipo sulla pensione. Il quarto obiettivo era mantenere l'impegno preso per il rinnovo, finalmente, dopo quasi 10 anni, dei contratti del pubblico impiego. Un risultato che certamente è importante e che è una risposta anche a richieste da tanti anni delle organizzazioni sindacali. Il quinto obiettivo è quello di cercare di guardare ad alcuni aspetti più critici che abbiamo davanti sul piano sociale, e su questo siamo stati sollecitati da tante organizzazioni, non solo sindacali ma di tutto l'arco sociale, e quindi interveniamo rafforzando le misure sulla povertà. Siamo intervenuti con il decreto sulle crisi aziendali, rilanciamo i progetti per la riqualificazione sociale e ambientale delle periferie, introduciamo misure per la famiglia e ulteriori configurazioni di anticipi pensionistici. E poi appunto la parte dei 35 anni. Adesso veniamo invece con Dino Pesola del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera. Alla parte, diciamo così, dei contenuti, questo era, possiamo dire, l'elemento anche programmatico, chiamiamolo così, di Gentiloni, che ha ricordato come siano stati evitati gli aumenti dell'IVA e non vi siano nuove tasse. Devo dire che su questo oggi è intervenuto anche il presidente Confindustria Boccia, che ha detto: lo abbiamo detto da tempo, è una manovra in cui non avevamo grandi aspettative con risorse non rilevanti, però, ha ricordato Boccia, non sono state attivate le cosiddette clausole di salvaguardia, quindi non è aumentata l'IVA. E questo ha permesso chiaramente il non incremento di alcune tasse. Importante poi è stato non smontare le riforme fatte. E tra l'altro poi Boccia chiede un piano di legislatura a medio termine, visto che in riferimento anche alla campagna elettorale che è alle porte. Per quello che riguarda, poi c'è un'altra dichiarazione del ministro Padoan, però Dino, restiamo sulla manovra in sé. Allora, gli sgravi sono per chi ha meno di 35 anni, ne ho assunti con meno di 35 anni, tra l'altro al 50% per 3 anni, tranne che al sud dove è il 100% lo sgravio contributivo. Poi ci tendevamo novità anche sul fronte fiscale, le cartelle esattoriali e il resto, prego Dino. Allora, per quanto riguarda le misure, chiamiamole per lo sviluppo e per la crescita, è qui un po' il punto dolente di questa manovra, che parte, come sappiamo, l'abbiamo ascoltato, con 15 miliardi e oltre di risorse da reperire proprio per evitare che scatti l'aumento dell'IVA, le cosiddette clausole. Se una manovra vale 20 miliardi, il conto è presto fatto. Quello che resta, se si tolgono le spese indifferibili, le missioni all'estero, i contratti statali, resta ben poco. I conteggi che abbiamo fatto sono di 338 milioni per quanto riguarda il capitolo competitività e innovazione, 30 milioni allo sviluppo. Quindi, allora, il contesto è certamente del sentiero stretto, caro a Padoan, però obiettivamente ci si può chiedere se a questo punto non valga la pena, nel corso dell'esame del parlamentare della manovra, di provare a trovare ulteriori risorse. Lo dico con un minimo di esperienza alle spalle: normalmente tutti i governi, quando approvano una manovra di bilancio, tengono una dotazione, vogliamo chiamarla di scorta, la lasciano nei cassetti della ragioneria per far fronte alle richieste che verranno nel corso dell'esame parlamentare. Richieste che, trattandosi dell'ultima manovra della legislatura, posso immaginare che verranno tutte dai partiti in chiave preelettorale per comprarsi un po' di consenso. Allora il governo, secondo me, a questo punto potrebbe dire: se io ho 1-2 miliardi di riserva, allora forse posso provare a incrementare questo pacchetto sulla competitività, che è obiettivamente un po' scarsetto, insomma è un po' esiguo. Quindi forse questo è il punto debole. Per il resto ci si muove obiettivamente in vincoli che difficilmente sono valicabili. Allora, su questo devo dire che, per quello che riguarda le cartelle esattoriali, poco fa il DL fiscale, la rottamazione è uscita un'agenzia, la rottamazione bis vale circa 1 miliardo nel 2018. Sì. Queste le stime del governo, dovrebbero arrivare questi soldi sia grazie alla riammissione di chi era stato escluso, sia attraverso l'estensione ai primi 9 mesi del 2017. Potenzialmente i contribuenti che potrebbero essere ripescati sono 53.000, di questi 43.000 stanno già aderendo ad un piano di rottamazione per altre cartelle. Gli incassi stimati sono appunto 518 milioni, mentre dalle cartelle 2017 si attendono altri 553 milioni. Dino, il ministro Padoan ha anche ricordato però che c'è l'assunzione di 1.500 ricercatori per l'università, aggiungo io, confermati invece gli 85 euro per il rinnovo del contratto del pubblico impiego e la dotazione per il reddito di inclusione. Sì, esatto, sono tutte misure che sono nel pacchetto della coesione sociale, sono circa 600 milioni nella previsione della nota che ha corretto il documento di economia e finanza, perché il testo del disegno di legge bilancio ancora non ce l'abbiamo e adesso poi bisognerà vedere se da qui a venerdì, quando verrà depositato in Parlamento, non ci saranno delle modifiche, ma sono tutte cifre che mostrano appunto quello che dicevamo prima. Quanto alle entrate dalla rottamazione bis delle cartelle, e qua bisogna precisare, e Padoan ha fatto bene in conferenza stampa a ricordarlo, che queste sono entrate una tantum, cioè sono entrate che vengono una volta sola, trattandosi, parliamoci chiaro, di una forma di sanatoria, no? Sì. Chiamiamola con il nome e cognome. Lo è. Lo è, quindi. E quindi, essendo una entrata una tantum, non può essere utilizzata per regole europee per ridurre il deficit, perché sennò sarebbe semplice, si fanno tutte una tantum e non si mette mai, non si aggrediscono mai i nodi strutturali. Questo bisogna spiegarlo bene, perché è vero che Bruxelles tra un mese dirà sì alla nuova flessibilità per 10 miliardi, molto probabilmente, però è anche vero che potrebbe anche eccepire e dire ma perché avete messo tutte queste una tantum, forse potreste incrementare il capitolo dei tagli, che peraltro non è nemmeno esiguo per il 40% della manovra, e anche qui devono essere realizzate, punto interrogativo, ce la facciamo nell'ultima manovra della legislatura a varare tagli così impegnativi? Insomma, ci sono alcune incognite che ora andranno un attimo verificate. E qui sarà l'esame parlamentare, dopodiché, come tu già ricordavi, il nostro modestissimo dubbio e preoccupazione è che non vi sia l'assalto alla diligenza, reperire altri soldi per la competitività delle imprese, appunto, ma ci mancherebbe. Il problema è iniziare con i regali a pioggia, e purtroppo devo dire, non voglio ritornare sulla classifica del venerdì, ma insomma, che quello che stiamo vedendo sul fronte turismo forestale in Sicilia non è beneaugurante. Cioè, speriamo che, vista la campagna elettorale imminente, non si è ancora capito. Ci sono novità sulla data? Marzo? 8 marzo? Sì, festa della donna. Probabilmente marzo, pare le ultime, non so se l'8, ma sicuramente marzo. Certo, è la tentazione, perché è l'ultimo treno, poi dopodiché ce ne saranno altri fino al prossimo autunno dell'anno successivo. Quindi si può immaginare che ci sarà un minimo di pressione. Lì bisogna vedere se il governo ha la forza e la maggioranza che lo sostiene, con i problemi che conosciamo, per far fronte alle richieste che verranno in sede parlamentare e saper scindere quegli emendamenti che sono tutti in chiave elettorale, cioè mi compro il consenso dei miei elettori, questo è il senso. Invece ne abbiamo commentata qualcuna di manovra. Voglio chiudere con una notizia positiva, nel senso che sicuramente non è quello che fa la manovra, però nella legge di bilancio ci sarà anche il bonus verde, con detrazione del 36% per la cura del verde privato, terrazze, giardini, anche condominiali. E vabbè, almeno se ne gioveranno le piante. In una finanziaria, non dico al verde, ma quasi, ci si occupa anche del verde. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Andiamo sul meteo e la pubblicità, e poi invece gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Thread Needle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora vedo molti messaggi. Guardate, abbiamo commentato in questi 18 anni, a spanne direi una decina di, anzi 18 manovre finanziarie, di cui alcune anche delicate, ma fossero anche più, poi le manovre bis, arriveremo non so quante. È una manovrina, come si sarebbe detto una volta, cioè non è una manovra che ha grandi velleità, lo riconoscono un po' tutti. Gentiloni, giustamente, dal suo punto di vista, dice vabbè, non abbiamo aumentato le tasse, non sono scattate le clausole di salvaguardia con l'IVA, e i conti li teniamo sotto controllo. Dopodiché, per essere cinici, io vi direi che una manovrona sotto campagna elettorale, auguri, perché le manovre sono importanti, il problema è con quale obiettivo le fai. Se sei a 3 mesi o 4 mesi dalla campagna elettorale, rischia che l'obiettivo sia breve, a brevissimo. Cambiamo tema invece, occupiamoci di team, perché sempre all'interno del Consiglio dei Ministri è arrivata oggi l'autorizzazione a esercitare la Golden Power su team. Allora, nel caso di team, la Golden Power cos'è? È un potere speciale di cui dispone il governo su società che operano in settori considerati strategici per l'interesse nazionale, tipicamente energia, telecomunicazioni, trasporti, difesa e sicurezza. Nel caso di team, l'elemento strategico non è il gestore di telefonia in senso lato, ma la Sparkle, e cioè i collegamenti sottomarini che gestiscono, che con tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e portano anche informazioni molto sensibili per il paese. Perché lo può attivare? Però perché, se ho ben capito, ma chiedo conferma a Antonella Olivieri del Sole 24 Ore, buonasera Antonella. Buonasera. Perché TIM non ha diciamo comunicato entro 10 giorni al Consiglio dei Ministri il fatto che c'è un azionista di controllo come Vivendi. Perché lo dico? Perché Vivendi possiede il 23,9% di TIM, ma ha notificato al governo questa situazione solo dopo il 15 settembre. Dopo, cioè, che la Consob aveva stabilito che Vivendi avesse di fatto il controllo. Poi vedremo cosa succederà alla Consob francese, che è tutto un altro fronte. Che cosa può succedere adesso, Antonella, e qual è, diciamo, la lettura che si può dare nel, non voglio parlare di scontro, ma confronto, sì, tra governo e in particolare il ministro Calenda e TIM, con la presenza dei francesi in posizione di controllore di fatto? Ecco, in realtà l'attesa è che siano due le attività strategiche. Una, quella che citavi tu, la società dei cavi internazionali, e l'altra la rete nazionale, la rete di telecomunicazioni. Però credo che le scadenze... Su cui Calenda ha detto di essere favorevole a immaginare anche un modello all'inglese, sì, in questi certamente. Giorni di separazione tra rete... E diciamo un po' come avviene per le ferrovie, se posso usare l'esempio, tra chi ha i binari e chi ci fa viaggiare sopra i vagoni. Diciamo che nel caso di British Telecom la rete è totalmente di British Telecom, soltanto che è separata, nel senso che si vede che attività svolge, che flussi di cassa muove e ci sono dei presidi pubblici, ma non è stata fatta all'interno di un discorso di Golden Power, perché non c'era nessun motivo per esercitarlo in Inghilterra, semplicemente per avere un'attività regolatoria che si basasse su un'organizzazione trasparente. E infatti anche in Italia, a parte il discorso di Golden Power, risulta che anche l'Agicom stia ragionando su un modello British Telecom. Non vuol dire che viene separata la rete dalla proprietà Telecom, anche perché... No, vuol dire semplicemente che hai visioni di due società separate, ma non, esatto. Non separate, diciamo, come azionariato. E quindi dicevo, scusami, il governo si potrebbe muovere a questo punto, visto che ha via libera sulla Golden Power, chiedendo che cosa? L'attesa è che ci siano due processi paralleli, però adesso è da capire, quando arriva il testo lo potremo verificare, che siano due processi paralleli. Uno, che è stato quello azionato con la notifica di Vivendi e che riguardava l'articolo 1 della legge sul Golden Power, tocca gli aspetti di difesa e sicurezza nazionale. In questo caso traduciamo Sparkle. E poi c'è stata una notifica di Telecom che Telecom non riteneva di dover fare, che invece ha fatto la settimana scorsa, anche perché è stato sollecitato vivamente dal governo a farlo, e che riguarda l'articolo 2. In questo caso l'articolo 2 sono proprio gli asset di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, quindi traduciamo rete. Il processo di Vivendi aveva una scadenza per una risposta così informale oggi, e quindi diciamo questa parte dovrebbe essere conclusa, quella che riguarda Sparkle dovrebbe conclusi con delle prescrizioni che garantiscano che l'asset Sparkle viene gestito in modo da tutelare la difesa e la sicurezza nazionale. Ma anche qui si era partiti con idee di cessione, avrebbe potuto comprare CDP, sì, no? Pare che invece si vada verso una direzione più di presidi di governance, diciamo così. Ma Sparkle è già una società e 100% Telecom è già una società, quindi il discorso è più semplice. E nel caso della rete invece, visto che la notifica è stata fatta solo la settimana scorsa, penso che ci voglia un periodo di riflessione, di confronto. In questo contesto dovrebbe situarsi anche l'incontro di Calenda di venerdì prossimo con il nuovo amministratore delegato. Questo come cambia la partita, se la cambia, diciamo, nell'altro fronte aperto, Vivendi, inteso in Mediaset, oppure sono due, è difficile immaginarle come due cose talmente parallele che non si parlino, non si tocchino. Hai ragione. Infatti, diciamo, c'è una preoccupazione latente, diciamo, ci sta dal punto di vista del business, da una parte, che Vivendi, che fa, produce contenuti, abbia la volontà di sfruttarli all'interno di un'alleanza industriale con Telecom, dove del resto ha investito miliardi. E dall'altra però c'è una preoccupazione pubblica. Beh, faccio un esempio: se per fornire contenuti Telecom si buttasse a fare l'asta del calcio, diciamo, lì si parla di milioni che in qualche modo potrebbero anche essere risorse, in teoria, che potrebbero venire distolte da investimenti sulla rete. Quindi una preoccupazione di capire che cosa vuol fare Vivendi con il doppio controllo che ha, diciamo, controllo di fatto su TIM, secondo azionista invece in Mediaset, perché e tu dici, attenzione, qual è l'obiettivo finale e l'investimento anche sulla rete italiana. Lì torneremo, lo dico solo per memoria così storica, a un vecchio tema che non riguarda solo la partecipazione di Vivendi, ossia già si pose ai tempi del governo Renzi. Il governo voleva che la Telecom partecipasse in maniera più attiva, proattiva alla digitalizzazione del paese. Telecom rispose: no, noi abbiamo degli altri obiettivi che sono di carattere, diciamo, societario, privatistico, vogliamo fare utili, quindi andiamo a investire con una banda che a noi sembra sufficiente. Lì poi a quel punto Renzi fece l'accordo Open Fiber con Enel e, come dire, vabbè, se non volete farlo voi, lo facciamo fare ad Enel. Questo per inquadrare il tema dell'investimento nella rete. Grazie anche a Antonello Olivieri del Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Myself. 17:50 minuti, andiamo adesso sulla borsa, sul resto della borsa, perché di Telecom abbiamo già ampiamente parlato. Comunque Telecom perde l'1,10%. Azimut l'1,40, Italgas meno 1, Fiat Chrysler meno 0,50 come Snam e Terna, Luxottica meno 0,40 come A2A, Unipolsai ed Enel. Oggi un po' di recupero sui bancari, nel senso che c'è stato anche un tentativo di venivamo da intere settimane di cali sui bancari dovute all'anticipazione della... Oggi, ieri Mario Draghi ha chiarito che l'altro ieri, che in realtà lui ha messo a disposizione questo documento sul nuovo modo di calcolo degli NPL, delle sofferenze bancarie, affinché tutti, banchieri, industriali, potessero prenderne visione e esprimere delle opinioni. Il risultato però, lo dico, nelle ultime settimane è stata una fuga, una venta dalle banche italiane, soprattutto perché con il nuovo calcolo al 2018 non varrà per le vecchie sofferenze, però varrà per le nuove e potrebbe portare, dico potrebbe, ma insomma, è quasi certo, a un restringimento del credito da parte delle banche italiane. Comunque oggi qualche tentativo di recupero. Filippo Diodovic, strategist di IG Italia, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo visto oggi Madrid andare un pochino peggio delle altre, meno 0,75 per la vicenda catalana. Però mi sembra che la settimana sia iniziata con una seduta abbastanza piatta. Sì, seduta abbastanza piatta, visto che oggi non c'erano tantissimi appuntamenti macroeconomici di rilievo. Si guarda molto alle questioni politiche, sia per quanto riguarda le elezioni che sono avute in Austria, la questione catalana. Avremo poi anche il braccio di ferro fra Theresa May e la Commissione Europea, visto che oggi sono state nuove trattative per quanto riguarda la Brexit, e poi avremo, ecco, un altro appuntamento da un punto di vista macroeconomico molto importante, perché mercoledì poi inizierà il congresso del Partito Comunista, e visto che è un appuntamento quinquennale sarà importante vedere quali saranno le direttive del Partito Comunista cinese. Anche perché oggi è stata una giornata che avevamo visto, soprattutto in avvio, un forte aumento per quanto riguarda i prezzi delle materie prime su dati macroeconomici della Cina più migliori del previsto, e questo ha portato sia il rame a segnare nuovi massimi, anche il petrolio era salito a inizio giornata per poi insomma cedere a fine giornata. E infatti anche lì non abbiamo visto grossi movimenti. Restiamo su Telecom da un lato e i bancari dall'altro, prego. Sì, beh, allora, per quanto riguarda i bancari, oggi abbiamo visto un forte aumento degli acquisti per quanto riguarda Banco BPM. Sulle indiscrezioni di un possibile arrivo di Warren Buffett con la sua Berkshire Hathaway, che visto che è già entrata in Cattolica Assicurazioni, potrebbe fare una partnership con Banco BPM, entrare nel capitale. Questo ha portato tanti acquisti sul titolo, e anche le vicende del settore bancario, come detto, le parole di Draghi che hanno cercato un po' di rallentare il nervosismo sul possibile sulle nuove regole sugli stock esistenti non performing loans, ha portato insomma delle vendite nel settore. E quindi ecco, noi ci aspettiamo ecco, una settimana ecco, quindi con un possibile ripresa per quanto riguarda il settore bancario. Per quanto riguarda Telecom Italia, la notizia del Golden Power su Telecom Italia, che era prevista, però ha avuto un po' un effetto di vendita, un effetto di ribasso per quanto riguarda il gruppo, nonostante ci siano stati anche dei report positivi da parte di alcune banche d'affari sul gruppo italiano, visto che molte hanno previsto insomma un rialzo delle quotazioni, visto che al momento sta quotando veramente su livelli molto bassi. Però ecco, gli investitori sembrano ancora in attesa di capire bene, stiamo aspettando la pubblicazione del comunicato stampa da parte del Consiglio dei Ministri, ecco quali saranno ecco, i poteri della Golden Power su Telecom Italia. Al momento crediamo sarà molto legato alla governance sì. Su Sparkle. Ne abbiamo appena parlato sì, con Antonio Olivieri, Sparkle, ma forse anche la rete, certo, i due aspetti. Allora, mentre mi chiedete l'euro è a quota 1,18 nei confronti del dollaro. Ringrazio Filippo Diodovic, strategist di IG Italia. Andiamo sul GR24 e poi all'Italia, perché fra 5 minuti, 4 minuti e 40 si chiude, si scade il termine per presentare le proposte di acquisto di tutta o di una parte della nostra ex compagnia di bandiera, e poi l'alternanza scuola lavoro. Focus economia. Soy el fuego que... minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Visto che parlavamo nella prima ora del programma anche della vicenda TIM e del via libera del Consiglio dei Ministri alla Golden Power, faccio notare che sempre in tema di telecomunicazioni, oggi il sottosegretario alle comunicazioni Antonello Giacomelli ha dichiarato che per l'asta delle frequenze in 5G, quindi l'evoluzione del 4G, che andrà in manovra, la base d'asta di 2,5 miliardi. Va ricordato però che alcune frequenze, tipo la banda 700, saranno disponibili dal 2022, quindi il pagamento potrà avvenire probabilmente per tranche nel corso degli anni e non in un'unica soluzione. Su questo però l'ultima parola spetta al Ministero Economia e Finanze. All'Italia, sono scadute da 8 minuti, è scaduto da 8 minuti il termine per la presentazione delle proposte di acquisto di tutta o di una parte del vettore. Secondo alcune anticipazioni non sono arrivati moltissime offerte, secondo un'indiscrezione appunto sarebbero in corso anche il fondo Cerberus e EasyJet. Se le offerte che sono arrivate non saranno valutate come buone, come accettabili, si valuterà se vi sono spazi di miglioramento, e quindi vi sarà una fase di negoziazione e miglioramento delle offerte presentate che va conclusa entro il 30 aprile, altrimenti il governo dovrà decidere come proseguire, ma è improbabile che opti per il fallimento. Intanto ai 600 milioni di prestito con ponte, come si chiama in gergo, concessi a maggio, se ne sono aggiunti altri 300 milioni con un allungamento dei tempi di restituzione di 10 mesi, quindi dai primi di novembre si slitta al 30 settembre 2018, così come è stato fatto slittare dal 5 novembre appunto al 30 aprile la data per il completamento della procedura di vendita. Ma la vera novità si chiama Lufthansa, che ha confermato, se ho ben capito, di aver espresso un interessamento, un'offerta per l'Italia, ma non per tutta la compagnia. Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Giorgio, è la novità forse più rilevante, EasyJet, adesso vedremo se verranno confermate, Cerberus, però Lufthansa che cosa vorrebbe? Perché abbiamo letto in descrizione di stampa 6.000 persone in meno, è solo una parte, diciamo, dell'Italia. Allora, diciamo, al momento l'offerta di Lufthansa, siamo ancora in attesa di avere conferme e tutto, però diciamo la stessa compagnia ha confermato, Lufthansa, di aver presentato un'offerta non per l'Italia la sua interezza, ma appunto per la parte aviation, cioè trasporto aereo, e fa riferimento espressamente appunto ai collegamenti globali, al mercato domestico e appunto ed europeo. Però parla espressamente nel comunicato la compagnia, parla della nuova Alitalia. Questa edizione Nuova Italia fa pensare a un diverso perimetro aziendale rispetto all'attuale. Indiscrezioni che arrivano dalla Germania fanno pensare che in testa, diciamo, i manager tedeschi abbiano una Alitalia con la metà sostanzialmente dei dipendenti attuali. Però attenzione, quando si fanno i negoziati, insomma, è evidente che si parte sempre con un'idea, diciamo, molto ribassista, e poi ci si siede a trattare. E poi bisogna vedere quanto è reale l'interesse e quanto si è disposti a venire poi, diciamo, no, meno rispetto all'idea originaria. Quindi la base di partenza, ammesso che poi trovino conferme le cifre che circolano, è una base di partenza, non significa che questo sarà poi il punto di caduta. Ci sarà, e questa è fondamentale, l'abilità dei tre commissari a trattare con quella che lo riterranno essere l'offerta più convincente. Ecco, su questo però, giustamente, come fa notare qualche ascoltatore, ma visto che quando fu salvata l'Italia e l'operazione che poi la portò a Etihad fu separata in bad company e good company, questa è già la good company, cioè quello che vorrei capire io, se loro sono interessati solo agli aerei e alle rotte, che cosa resterebbe fuori? Parlo di Lufthansa, chiaramente. Voglio dire, ricordatevi che appunto oltre c'è la parte di handling pure, e sì, c'erano indiscrezioni, diciamo, dei giorni, delle settimane scorse, parlavano anche di interessi di società di handlers per la parte handling, dei servizi aeroportuali, insomma. Mm-hmm. Quindi diciamo nulla toglie che possano essere, come dire, scorporati. Quindi voglio dire, parliamo comunque di anche ai diversi segmenti di business. L'interesse del governo e dei commissari è quello di mantenere il più possibile l'unitarietà aziendale. Quindi loro cercheranno ovviamente di cedere il più possibile il pacchetto completo. Però appunto bisogna trovare un compratore. Ci sono poi gli altri nomi, no? Hai fatto il nome Pier di Cerberus, però i fondi private equity devono, come dire, subentrano come di più, qua c'è un piano industriale che li convince, poi appunto i fondi non europei devono poi avere non possono stare oltre, appunto non possono avere la maggioranza, quindi appunto sono, diciamo, non sono il core, diciamo, ecco, di un'offerta. EasyJet si tratta di capire quanto, diciamo, possa avere poi reale interesse di acquisizione di qualche parte, diciamo, di Alitalia, o quanto non convenga invece EasyJet, non so, se volessero svilupparsi sul lungo raggio eccetera, quanto, questo non è chiaro, quanto non possa convenire invece EasyJet procedere da sola, no? Quindi diciamo, si tratta veramente di capire un po' quando saranno rese note queste offerte, quanto, diciamo, sono poi in sintonia anche con quelli che sono gli obiettivi industriali, no, dei proponenti. E allora aspettiamo anche il dettaglio di questo effetto. Intanto grazie a Giorgio Pogliotti per questa spiegazione. Mi interessa invece il prossimo tema, perché l'ho lasciato sospeso venerdì scorso, sì, in occasione delle 70 manifestazioni studentesche in tutta la penisola contro l'alternanza scuola-lavoro, avevamo preso una posizione abbastanza netta dicendo è giusto che se si lamentano utilizzi, se gli studenti lamentano utilizzi, insomma, strani, c'è chi diceva mi fanno fare volantinaggio, pulire i pavimenti, lavare i piatti, preparare il caffè, ho capito, questa non è alternanza scuola-lavoro. Detto questo, abbiamo rinvenuto anche un po' di demagogia in alcuni slogan, non solo quello siamo studenti, non siamo operai, poi non ho ben capito se la frase completa fosse non siamo operai sottopagati, comunque, ma insomma un'avversione all'idea dell'alternanza scuola-lavoro e che sarebbe sbagliata e soprattutto un approccio, a mio avviso, sbagliato. È chiaro che quando vai come studente a fare un periodo di tempo in un'impresa, in una società, in una struttura lavorativa, beh, ti mettono soprattutto a guardare, a fare mansioni minori, perché non è che impari solo il mestiere, impari anche cosa vuol dire un luogo di lavoro. Non si deve scandalizzare nessuno, il sottoscritto, lo ricordavo venerdì, quando iniziò a fare lo stagista, pagato zero, e faceva tante fotocopie, qualche breve, come si chiama in gergo, di tre righe, guardava quello che facevano gli altri, andava alle conferenze stampa minori, per non dire quelle insomma, in cui bisognava solo fare presenza, non è che venisse utilizzato come chissà che cosa. Uno dice, meno male, ho capito, ma è fisiologico. Su questo ce l'avamo salutati, e allora torniamo sul tema alternanza scuola-lavoro al di là delle proteste degli studenti. Siamo scesi in piazza proclamando comunione degli studenti lo sciopero dell'alternanza, perché l'alternanza ha ancora molte criticità, il governo ha lanciato una proposta ma non ha previsto piani di aiuto alle scuole e ci sono stati molti casi, eclatante quello di La Spezia o quelli del Gentileschi, che le ragazze sono andate in una struttura turistica e il datore di lavoro ha licenziato i lavoratori poiché aveva gli studenti che potevano dare mano d'opera gratuita. Non è ancora prevista dal Ministro e dal Ministero una carta dei diritti degli studenti, che subiscono ancora soprusi e sono senza tutele. Contro un sistema di istruzione che preferisce spedire gli studenti a lavorare 200 ore se sono in una scuola di serie A e 400 ore se sono in una scuola di serie B, a lavorare su muletti che rischiano di ribaltarsi anche con gravi conseguenze poi per i ragazzi stessi che a studiare. Questo è ovvio che è un modello che sta formando un mondo in cui le persone devono essere abituate subito a entrare in un mondo del lavoro che è sempre più simile alla schiavitù, di una precarietà che tra l'altro non si sa mai se il giorno dopo esiste ancora o peggio si muore direttamente di fame. Ovviamente non è un mondo in cui vogliamo vivere. E mentre il ministro Fedeli proprio a Radio 24 lo scorso sabato si può fare, ha detto insomma le criticità ci sono ma le stiamo affrontando sostenendo i tutor nelle scuole affinché i progetti di alternanza scuola-lavoro siano parte della formazione come stabilito la legge 107, la nostra Maria Piera Cecci ha raggiunto il vicepresidente di Confindustria con delega per il capitale umano Giovanni Brugnoni. Credere che un'impresa sfrutti gli studenti come lavoratori, credo che sia proprio un retaggio di anni e anni addietro. Io credo che in ogni categoria ci sia del buono e del meno buono. Noi come Confindustria abbiamo fortemente voluto questo provvedimento, tanto è vero che abbiamo istituito anche un bollino della buona alternanza per le imprese che si, diciamo, evidenziano in buoni percorsi di alternanza e sono link ideale. Quindi noi faremo anche una classifica interna delle imprese che fanno delle best practice. È evidente che non condividiamo le imprese che invece possono avere dei comportamenti non consoni a questo istituto. Allora, chiarisco perché vedo molti messaggi al 349-238-6666. Non stiamo parlando, mi scrivono alcuni praticanti avvocati, di un altro tema, cioè dell'abuso e dei praticanti messi a zero lire o a zero euro a lavorare o obbligati a fare partita IVA. L'abbiamo già denunciato come qualcosa che non è accettabile, vale, ripeto, ce lo segnalate come architetti, come praticanti, avvocati, come... ma questo riguarda il mondo delle libere professioni, quello che succede lì dentro, che abbiamo già esecrato altre volte. Qui stiamo parlando dell'alternanza scuola-lavoro, che esiste anche in altri paesi, è fortissima in Germania, e voleva essere il modo per far conoscere anche l'ambiente lavorativo. Poi mi dice, mi scrive un ascoltatore che ha una foto su WhatsApp molto dolce, però mi scrive non sono tutti figli di ricchi come te, mi piacerebbe confrontarmi direttamente con te, ti tirerei fuori tutta la mer che hai in bocca. Complimenti della foto. Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, istituto di ricerca nel campo delle scienze sociali e della formazione, notissima Fondazione Agnelli, che studia anche da sempre il mondo del lavoro della scuola e nel rapporto col lavoro. Buonasera. Buonasera a lei. Stia ancora un minuto con noi perché ho il traffico. Focus Economia. :22 allora Gavosto, fermo restando, vedo anche molti messaggi, le denunce di alcuni studenti e l'utilizzo improprio, inaccettabile di questo strumento, forse bisognava mettere qualche controllo in più, spero che il ministro li metta velocemente, però sono solo io a notare anche un certo così, atteggiamento ideologico nei confronti dell'alternanza scuola-lavoro, oppure mi dica lei che conosce e lo guarda con molto più attenzione, nei casi magari più piccoli, meno visibili, diciamo, è difficile generalizzare, c'è stato un effettivo abuso? Secondo me c'è stato, vuol dire non i casi singoli, ma esatto, una tendenza generalizzata all'abuso, questo volevo dire. No, secondo me no, diciamo, quello che emergeva anche nelle interviste che avete fatto ai manifestanti, secondo me sono due concezioni un po' errate, molto presenti però nel mondo della scuola e anche fuori della scuola, dell'alternanza scuola-lavoro, nel senso c'è chi pensa che l'alternanza scuola-lavoro debba servire come orientamento per quello che devo fare dopo, università o mondo del lavoro, questo però non funziona perché a quel punto non dovrei fare neanche 200 ore, dovrei fare decine e decine di prove, diciamo, in diversi settori produttivi, con diversi tipi di aziende, per capire cosa effettivamente voglio fare, diciamo, successivamente. Quindi non è uno stage di orientamento, non è neanche e soprattutto una forma di apprendistato professionalizzante. No, che ha un altro tipo di contratto, rientra anche nella riforma adesso per gli under 35, cioè non è né uno stage di orientamento come quelli che ho fatto io pur facendo molte fotocopie, né è un apprendistato che ha tutta un'altra regolamentazione giuridica, e tra l'altro su cui è intervenuto anche il governo, appunto sulla parte dei 35 anni. Prego. Esattamente, perché apprendistato professionalizzante ha un'altra funzione, lì veramente questo misto, che in Germania funziona benissimo, è la vera forza del sistema tedesco, per cui faccio, diciamo, 3 giorni a lavorare e 2 giorni di formazione su competenze di base, eccetera. Secondo me la forza e la cosa interessante dell'alternanza scuola-lavoro è, in un certo senso, che spalanca una finestra sul mondo al di fuori della scuola, quindi i ragazzi sono messi in contatto con realtà diverse da quelle della famiglia e della scuola, in realtà di cui devono almeno osservare, se non apprendere, i codici di comportamento. Tutti sappiamo che quando uno entra in un posto, in un'organizzazione, deve imparare a comportarsi in una determinata maniera, deve capire, diciamo, come i vari ingranaggi sono inseriti nel loro insieme, eccetera, eccetera. Quindi serve soprattutto a quelle che adesso va di moda chiamare competenze trasversali o soft skill. Quindi, diciamo, secondo me è utile da quel punto di vista, perché, come dire, crea un contatto con un mondo che prima o poi i ragazzi, che non è necessariamente solo quelle aziende, qualunque tipo di organizzazione. Ecco, questo che per lei sta dicendo è molto importante, perché forse c'è stato anche un problema di comunicazione, nel senso che una volta che lei chiarisce, guardate, non è uno stage di orientamento, non vai a fare uno stage in un'impresa perché magari lì vorresti essere preso o l'impresa ha intenzione poi di prenderti se viene confermato il buon risultato dello stage, non è nemmeno l'apprendistato sul modello tedesco che citavo io, per cui tu fai un po' di ore di lavoro e un po' di ore di formazione, ma su cose molto specifiche, con un contratto molto specifico. Era un modo per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Qualcuno mi scrive, ma che cavolo vuol dire andare in un luogo di lavoro e guardare, se io devo imparare, devo fare. Beh, delle volte impari anche le dinamiche interne, che non sono solo, diciamo, come si fanno le operazioni più semplici, per carità, ma anche i rapporti gerarchici, i rapporti trasversali, che cosa vogliono dire. Non è tutto scontato. Quando sei uno studente, tu hai un rapporto solo con il docente, con il professore, ed è finita lì la complicazione. Gavosto. Sono assolutamente d'accordo. No, pensi, per esempio, banalmente, diciamo, ai ragazzi che fanno magari gli steward e le hostess, lì non c'è da imparare a fare un pezzo, a lavorare un pezzo di ferro o di plastica, sostanzialmente, però bisogna capire come interagire con una persona che chiede informazioni, capire dove, come dire, dove è l'evento o gli eventi minori, eccetera, eccetera. Quindi, e allora, Gavosto, cos'è che è migliorabile? Perché chiaramente, insomma, adesso... Io sono il primo a dire che c'è anche un'opposizione delle volte ideologica, però forse la stessa ministra Fedeli ai nostri microfoni sabato diceva qualche tutor in più, cioè per evitare che vi siano degli abusi. A me viene in mente per parallelo il caso dei voucher, strumento ottimo a mio avviso, abusato in molti casi, così abbiamo buttato via tutto, il bambino e l'acqua sporca, prego. No, c'è molto da migliorare, appunto, a parte gli abusi che sono, diciamo, credo pochissimi casi di aziende che effettivamente, così, in un certo senso campano utilizzando giovani in formazione in alternanza scuola-lavoro, che non ha nessun senso, però la cosa probabilmente che osserviamo è che è molto a macchia di leopardo, cioè dipende molto sostanzialmente dalla capacità dei singoli presidi, dei dirigenti scolastici. Queste sono varie ricerche che ci dicono che in tantissimi casi alla fine il preside che si sbatte riesce a trovare delle opportunità interessanti di alternanza scuola-lavoro, negli altri casi, parliamo di più del 10% dei casi, invece magari presi a meno contatti, eccetera, eccetera, il tutto si riduce a fare la simulazione di impresa nelle scuole, che, come può capire, ha un'utilità molto modesta, perché a quel punto sono di nuovo, certo, nella mia classe abituale, faccio finta di fare un business plan o qualcosa del genere, quindi l'utilità è molto, molto scarsa. Allora, nel ringraziare appunto il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto, dico un ascoltore che mi riempie di insulti. Guardi, che debbano essere pagati, lo dice solo lei, non era mai previsto in questo tipo di strumento. L'apprendistato è pagato, gli stage delle volte sono pagati, delle volte no, io personalmente li ho fatti sempre gratuiti, e quindi non è neanche detto che lo stage debba essere pagato, ma sicuramente non deve essere pagato lo studente in alternanza scuola-lavoro. Se poi ci sono delle storture, e ci saranno sicuramente, ben vengano i tutor e avvitare anche la legge, come si dice in questi casi. Comunque, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vi lascio alla nostra programmazione. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.